La notte è scesa e già qui. È un soffio di luce la baciù. Soltanto il ricordo di te porta un po' di nostalgia. È vero, una lacrima c'è, ma velata di poesia. Di notte mi sento senza età, come un bambino sereno che vive già, ma non conosce il rimpianto di un'altra età. Soltanto il ricordo di te porta un po' di nostalgia. È vero, una lacrima c'è, ma velata di poesia. È tardi, ho spento l'abat-jour. Ho chiuso gli occhi e tra poco già dormirò. Ho chiuso gli occhi e tra poco già dormirò.